a Bergamo, Nicola Locci in Sardegna. Nicola Locci lo conosciamo come Stigmate e Hexagonal. Cecilia Miradoli di Pindar, Marco qui a Roma come Alessandra. E infine abbiamo a Berlino Mariano, anche lui è un affezionatissimo ascoltatore di queste frequenze e di questi spazi. Ancora una volta andiamo a vivisezionare questo ultimo lavoro di Io Sono un Cane, questo, come ho già definito, piccolo grande fenomeno del recentissimo 2021. Terzo lavoro per questo artista sardo, si chiama Ira e si dipana su due CD. Questa sera cominciamo con il conoscere proprio il secondo supporto digitale di Ira. Due tracce abbastanza diverse tra di loro che vanno a confermare l'artista eclettico che è il buon Io Sono un Cane, tra ambient, elettronica sparsa qua e là di varia fattura e natura, post rock, anche esempi ed accenni di tribalismo. Questa sera ci ascoltiamo Nairan e poi Sangre. È stato il cuore di molti di noi questo Ira di Io sono un cane. Tanti aspetti musicali affrontati in questa opera del 2001 che mette d'accordo tante persone anche diverse tra di loro, e non è un caso. Intanto vado a salutare Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, Valerio e Ale e Trinity Bersani di Della Grazia Obliqua e Fate to Grace, recente progetto elettronico che ci siamo gustati qui in Disorder e che ci gusteremo ancora attraverso una loro ultima uscita, Super Green Bus. Saluto anche Giulia qui a Roma e mi appresto a rimanere sempre nella nostra penisola, ma ci spostiamo nel Veneto, un Veneto che ci ha donato tanti talenti, e anche Venezia fa la sua parte con questi New Candies. Quattro lavori, di cui l'ultimo dal nome Vavid, proprio del 2021. È una fusione azzeccatissima tra le vecchie influenze che fanno capo ai Velvet Underground, fino ad arrivare ai Jesus Mary Chain, ai Primal Scream. Allora, da questo Vavid ci andiamo ad ascoltare Evil Evil e Vivian Rising. abbastanza probabile che possano ricordare qualcosa, più di un qualcosa, questi New Candies da Venezia. Si chiama Vaved questo album e, come giustamente dice il buon Nicola Locci, che vado a risalutare, lui probabilmente intende i Jesus and Mary Chain, i Primal Scream, i Loop. E ancora indietro nel tempo, come ho già detto, a me personalmente hanno ricordato qualche passaggino di Velvet Underground. 21:51, questo è Disorder su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, primo programma del 2022. Quindi il ventennale di questo spazio, mentre per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione, quest'anno si entra nel 30° anno di esistenza. In Olanda c'è Mosquita de Miramar, di Feraglia Planizia, progetto elettronico. Lei ci sta ascoltando da Haarlem in Olanda. Mentre noi andiamo in Germania e andiamo ad una istituzione dell'EBM, dell'Electronic Body Music, uno dei progetti che praticamente hanno inventato quel tipo di suono, e sto parlando dei DAF. DAF che, nonostante la prematura scomparsa di Gabi Delgado Lopez, vanno avanti nella loro carriera, e quindi è rimasto soltanto Robert Gorl a portare avanti le sorti dei Deutsche Amerikanische Freundschaft, l'amicizia tedesco-americana. Il loro ultimo lavoro si chiama Nur noch Heiner e questa sera altre tre tracce: Neue Welt, Kein Ausweg, Es muss ans Licht. Hola. Kein Ausweg. Kein Ausweg.